Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Se piaccio alle donne non è per le virtù che ho, ma per i vizi che non ho. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are, a cinema, a cinema. Mettetevi comodi, stiamo per raccontarvi Alta Fedeltà di Stephen Frears. Rob è un trentenne pigro e sentimentalmente immaturo con una smisurata cultura musicale. Dopo essere stato piantato dall'ultima fidanzata, Laura, decide di capire cosa non funziona nei suoi rapporti con le donne e di riconquistarla. Audiogrammi in radio come al cinema. Non sei obbligata ad andartene così di corsa. Puoi restare quanto vuoi. No, la parte più penosa è fatta. Tanto rimani almeno per stanotte. Laura, non hai neanche le più dolorose. Fra tutte le storie finite, la top 5 delle mie rotture più memorabili in ordine cronologico vede protagoniste Alison Ashmore, Penny Hardwick, Jackie Alden, Charlie Nicholson e Sarah Kendrio. Queste cinque sono quelle che più bruciano ancora. Lo vedi scritto il tuo nome su questa lista, Laura? Forse riuscirai ad entrare nella top 10, ma non c'è posto per te nella top 5. Mi dispiace, sono posizioni riservate a un tipo di sofferenza che non sei in grado di suscitare. Suonava forse più cattivo di quanto avrebbe voluto, ma il fatto era che lui e Laura erano troppo cresciuti per rovinarsi la vita a vicenda. E questo era un bene, non un male. Quei tempi in cui l'infelicità significava davvero qualcosa erano passati, e che liberazione. Adesso era più una seccatura, un po' come avere il raffreddore o essere al verde. Se Laura avesse voluto davvero incasinarlo, sarebbe dovuta arrivare prima. La ragazza numero uno delle cinque storie finite male, come ho già detto, è stata Alison Ashmore. Quasi tutti i pomeriggi, Rob e i suoi amici ciondolavano ai giardinetti che stavano proprio dietro casa sua, nel solito genere di sobborgo, col solito genere di giardinetti a 3 minuti da casa. Avevano 12 o 13 anni e avevano scoperto da poco l'ironia, o almeno quella che poi compresero essere l'ironia. Si sentivano liberi di usare l'altalena, la giostra e gli altri giochi per bambini che arrugginivano lì ai giardinetti, solo a condizione di ostentare una specie di distacco voluto e ironico. Non avevano ironia però in fatto di ragazze, non c'era stato tempo. Un attimo prima non esistevano, almeno non in un qualche modo interessante. E l'attimo dopo non potevi evitarle, erano dappertutto, erano ovunque. I ragazzi non erano tanto diversi da prima. Gli era venuta la voce stridula e i peli che gli stavano spuntando sul pube erano il loro segreto, un segreto strettamente conservato negli slip. Le ragazze, invece, tutt'a un tratto avevano il seno e insieme a quello un nuovo modo di camminare con le braccia incrociate sul petto. E poi ecco trucco e profumo, sempre da 4 soldi e usati in modo inesperto, a volte persino comico. La mia storia con Alison Ashmore durò per circa 6 ore. Le 2 ore del doposcuola prima di Agenzia Rockford in TV per 3 giorni di fila. Il quarto pomeriggio Rob arrivò ai giardinetti e Alison era seduta là, sulla panchina, abbracciata a Kevin Bannister. Nessuno disse niente, non Alison, né Kevin, né Rob. Si sentì avvampare, arrossì e tutt'a un tratto non seppe più come camminare senza essere consapevole di ogni singola parte del suo corpo. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love, and I know. Comunque, se avesse dovuto rifare la classifica secondo il dolore provato, anziché in ordine cronologico, Allison sarebbe passata dritta dal primo al secondo posto. Sarebbe bello credere che siano cambiati i tempi da allora, che con l'età i rapporti siano diventati più seri, che siano meno ciniche le donne, più dura la nostra corazza, che l'istinto si sia sviluppato. Sembra invece che un elemento di quel pomeriggio ricorra in ogni mia storia. Tutti i miei amori successivi sono una versione iper incasinata di quello. Gli sarebbe piaciuto poter dire che fra loro si erano svolte lunghe e interessanti conversazioni e che erano rimasti buoni amici per tutta l'adolescenza. Sarebbe stata perfetta come amica, ma probabilmente non parlarono mai. Certe volte a Rob veniva una tale noia a cercare di toccarle il seno che provava a toccarle in mezzo alle gambe. Era come chiedere in prestito 5 sterline, sentirsi dire di no e chiederne 50. La seconda posizione della mia top 5 è occupata da Penny Hardwick. Penny era carina, tanto. I suoi 5 cantanti preferiti erano Carly Simon, Carole King, James Taylor, Cat Stevens ed Elton John. Penny Hardwick era una brava ragazza e da adulto Rob era diventato decisamente favorevole alle brave ragazze. Piaceva un sacco di gente. In effetti era talmente una brava ragazza che non gli lasciava mettere la mano non solo sotto, ma nemmeno sopra il reggiseno. E così Rob la lasciò, anche se, chiaro, non le disse perché. Lei pianse e lui la odiò per questo, perché lo fece stare male. La numero 3 della mia speciale classifica dei fallimenti è Charlie Nichols, secondo anno di college. Meno male, oggi non ce la facevo più. Come la vidi, capì che era il tipo di ragazza che avevo sempre sognato, da quando avevo cominciato a sognare le donne. Perché lei era diversa. Lei era esuberante, stravagante. Parlava. E quando parlava diceva sempre cose argute e interessanti. Su musica, libri, cinema, politica. Parlava tanto. Charlie Nicholson era la ragazza del suo amico Phil e Rob gliela soffiò lentamente, pazientemente, nel corso di lunghi mesi. Nemmeno sapeva perché volesse rompergli le uova nel paniere a quei due e a tutti quelli che si beavano a vederli uscire insieme. Phil cominciò a lavorare in un negozio di abbigliamento maschile il sabato e per Rob fu un grande passo in avanti. Charlie e lui si vedevano di nascosto, si telefonavano di nascosto, facevano sesso di nascosto e parlavano di come sarebbe stato bello quando non avrebbero più dovuto nascondersi. Non si chiesero mai se fosse vero o no, non c'era tempo. Io a lei piacevo, le piaceva stare con me, o almeno così credo. Rob cercava di non parlare troppo male di Phil. Si sentiva già abbastanza in colpa per come stavano le cose, dato che gli aveva fregato la ragazza e compagnia bella. Ma non ci riusciva. E quando Charlie esprimeva dei dubbi su di lui, lui quei dubbi li nutriva come fossero dei poveri gattini macilenti, finché non diventarono rancori gagliardi e vigorosi, dotati di gattesca agilità e capaci di entrare e uscire dalle conversazioni a piacer loro. Time has told me you're rare, fine. E poi una sera a una festa, Rob vide Phil e Charlie rintanati insieme in un angolo. e Phil era palesemente angosciato, pallido e vicino alle lacrime. E poi lui se ne andò a casa e il mattino dopo lei gli telefonò per chiedergli se gli andava di uscire a fare quattro passi. Ed era fatta, non dovevano più nascondersi. Durò un paio d'anni, mal goduti, perché io non trovavo risposta a una domanda. Perché una ragazza, no, una donna come Charlie sta con me? Lo lasciò per mettersi con uno di nome Marco. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. Tutto era accaduto così in fretta. In un certo senso Rob aveva contato sul fatto che la sua maturazione sarebbe stata lunga, sostanziosa, istruttiva. Invece successe tutto in quei due anni. Certe volte aveva quasi l'impressione che tutto quello che aveva fatto dopo allora e tutte le persone che aveva incontrato erano stati solo dei leggeri diversivi. La verità era che non aveva mai veramente superato Charlie. Fu allora che cominciò la sua cosa più importante, quella che davvero lo aveva segnato. Alcune delle sue canzoni preferite, Rob le aveva ascoltate in media una volta a settimana da quando aveva 16 o 19 o 21 anni. Questo come potrebbe non lasciare un segno? Come potrebbe non trasformarti nel genere di persona destinata ad andare in pezzi quando il primo amore se ne va? Cosa è venuto prima, la musica o la sofferenza? Ascoltava la musica perché soffriva? O soffriva perché ascoltava la musica? Erano tutti quei dischi che facevano diventare malinconici? Comunque, ecco come non fare carriera. A. Perdere la ragazza. B. Piantare l'università. C. Lavorare in un negozio di dischi. 10 anni prima aveva preso in prestito il denaro e aveva aperto un negozio di dischi. D. Restare nei negozi di dischi per il resto della vita. C'è chi non si è mai ripreso dopo il Vietnam, chi dopo aver visto un concerto dei Nirvana. Io non ho mai dimenticato Charlie. Ma una cosa me l'ha insegnata quella disfatta. Sfidare solo le pari peso, perché Charlie era di un'altra categoria. Troppo bella, troppo sveglia, troppo carattere, troppo tutto. E io invece un peso medio. Non sarò il più in gamba del mondo, ma neanche il più stupido. Ho letto tanti libri tipo L'insostenibile leggerezza dell'essere o Amore al tempo del colera e credo di averli capiti. Però parlano di donne, no? Scherzavo. A quel punto squillò il telefono. Championship. Ciao. Era Laura. Ciao. Avrei intenzione di fare un salto a casa a prendere della roba mentre tu lavori domani. Mentre io lavoro. Mentre lavoro. Che palle, che palle. Non sai dire altro? Solo che palle. Complimenti. Laura, è un'idiozia. Scusa, tu Laura. Dovresti... Ti devo salutare. Ciao. Laura non avrebbe mai cambiato tutto ciò che lo circondava come aveva fatto Charlie. Era accaduto già troppe altre volte, sia a lei che a Rob. Così sarebbe successo, semplicemente, che tutti e due sarebbero tornati ai vecchi amici, ai pub e alla vita di prima. E sarebbe finita lì. E nessuno avrebbe notato la differenza, probabilmente. You win the argument at the end of every night. I never know the perfect time to hit the bedside light. Tra me e Sara, la numero 4 della mia lista, compatibilità. Era stata appena mollata da un imbecille di nome Michael. Io ero stato appena tramortito da Charlie. Era naturale che condividessimo il nostro disgusto per l'altro sesso. E visto che c'eravamo, finimmo per condividere anche il letto. Avevamo il terrore di restare soli per il resto della nostra vita. Solo persone in uno stato d'animo particolare provano questo terrore profondo a 26 anni. Noi eravamo in quello stato d'animo. Perciò quando mi disse... Ho conosciuto un tale. Che hai detto? Ho conosciuto un tale. Chi? Una persona. Questo era in contrasto con lo spirito del nostro accordo. One step beyond. Sara, la quarta in classifica, era carina, ma in modo normale. Piccola, magra, aveva dei begli occhi grandi, marroni, i denti storti, i capelli neri. I suoi primi 5 cantanti o gruppi preferiti erano in assoluto Madness, Eurythmics, Bob Dylan, Joni Mitchell, Bob Marley. I suoi primi 5 film preferiti in assoluto Gran Premio, Diva, Gandhi, Missing, Cime Tempestose. A differenza di altre coppie, non riuscivano a proiettare niente fuori di loro. Quello fra Sarah e Rob era un matrimonio di interesse, cinico e reciprocamente vantaggioso, come tutti i matrimoni di interesse. E Rob pensava sul serio che sarebbe potuto restare tutta la vita con lei. Non ci avrebbe trovato niente di male. Lei era ok. Dunque, com'è che lo aveva scaricato? Perché mi mollano? Perché? Chi è? Se ti imbarchi in una storia, devi mettere in conto che non funzioni. E poi Rob aveva incontrato Laura e si erano messi a vivere insieme. E adesso lei se n'era andata. Ma fin lì non gli aveva offerto niente di nuovo. Se voleva avanzare nella classifica, doveva cercare di fare di meglio. Rob non era più così vulnerabile come quando stava con Allison o Charlie. Laura non aveva rivoluzionato tutta la sua vita quotidiana come Charlie. Non l'aveva fatto sentire in colpa come Penny ed era più robusto di quando se n'era andata Sara. E sapeva, a dispetto di tutta la tetraggine e l'insicurezza che ci sommergono quando veniamo scaricati, che per lui non era stata né l'ultima né la migliore possibilità di avere una relazione. Così, beh, ci aveva provato. C'era andata vicina, ma fra le prime 5 non c'era. Bye bye Laura, ci vediamo. Laura se ne andò un lunedì mattina presto, con una sacca da viaggio e una borsa di carta. Dava da pensare davvero vedere quanta poca roba prendeva con sé quella donna che amava tutte le sue cose, le sue teiere e i suoi libri, le sue fotografie e la sculturina che aveva portato dall'India. Rob guardò la sacca e pensò: Gesù, ecco fino a che punto non ne può più di vivere con me. Tu mi ami ancora? Beh, non è questo il punto, Rob. Perché? Che altro c'è? Che vuoi dire? Che c'è dietro? Non lo so. Resta il fatto che noi due non andiamo più d'accordo, quindi mi auguro che non ci sia più amore, se proprio vuoi saperlo. Almeno così salverai la mia idea dell'amore. Per piacere. Ti ho picchiata, ti ho trattato male, che ho fatto? Insomma, per renderti felice, che cosa avrei dovuto fare? Dimmelo. Niente, cerca tu di essere felice. Oh, certo, come no? Perché? Non mi vedi felice, forse? Io vedo solo che sei rimasto la persona che eri. Io però no. Anche se finora ho cambiato solo lavoro. E vestiti, parrucchiere, comportamento, amici. Non potevo andare a lavorare con i capelli rosa. Sei più rigida. Tu al massimo avrai cambiato i calzini da quando ti conosco. No, per favore, Laura, non dire stupidaggini. Prima almeno parlavi del futuro, ora non fai più neanche questo. Io sto bene, sei tu che odi il tuo lavoro. Vedi, non hai capito niente. Il mio lavoro mi piace. Voglio solo dire che certe cose bisogna lasciare che avvengano, Rob. Soprattutto dentro di noi. E tu non lo fai. Non l'hai mai fatto. Certe cose bisogna lasciare che avvengano, Rob. Soprattutto dentro di noi. Si abbracciarono davanti alla porta e lei aveva le lacrime agli occhi. Era una uscita goffa. Laura aveva tutte e due le mani occupate, ma cercava ugualmente di aprire la porta senza riuscirci. Così gliela aprì lui, ma così le ingombrava la strada. Era dovuto uscire sul pianerottolo per lasciare uscire lei, che cercava di trattenere la porta perché lui era senza chiave. E aveva dovuto infilarsi dietro di lei di corsa per acchiappare la porta prima che le si chiudesse alle spalle. Tutto qui. Till it makes me sick. I ain't afraid of confusion. No matter how thick, I can smile in the face of mankind. Don't even remember what her lips felt like on mine most of the time. Sono proprietario di questo negozio, il Championship Vinyl. È in un quartiere, in una strada che definire di scarso passaggio è eufemistico. Tiro avanti grazie agli sforzi economici degli appassionati, soprattutto giovani, che passano il tempo a cercare singoli degli Smiths, quelli originali. Non le versioni rifatte, ovviamente. È Frank Zappa, qualunque cosa. Il feticista musicale non è diverso da quello porno. Mi vergognerei di sfruttarli se non fossi anch'io in quel gruppo. Ciao, Dick. Oh, ciao, Rob. Rob era in ritardo e quando arrivò al negozio c'era già Dick che stava appoggiato alla porta e leggeva un libro. Dick aveva 31 anni, i capelli neri, lunghi e grassi. Aveva sentito quasi tutta la musica che c'era in negozio e preferiva portarsi da casa roba nuova da ascoltare mentre lavorava, piuttosto che sprecare tempo a sentire qualcosa una seconda volta. Il negozio puzzava di fumo rancido, di umido, di copertine plastificate ed era stretto e squallido e sporco e stipato. Un po' perché è così che lo voleva Rob. Questo è l'aspetto che deve avere un negozio di dischi e solo i fan di Phil Collins amano i negozi dall'aria pulita e salubre come un quartiere residenziale in periferia. E un po' perché in effetti non riusciva a decidersi a ripulirlo o a fare imbiancare le pareti. Dick mise un disco, una roba psichedelica della West Coast, e preparò il caffè mentre Rob si mise a esaminare la posta. Bevero il caffè e poi lui provò a ficcare ancora qualche disco negli espositori straboccanti e scricchiolanti, mentre Rob impacchettava un paio di ordinazioni arrivate per posta. Barry non si presentò che dopo pranzo, ma non era affatto strano. Non li posso licenziare. Li avevo assunti per 3 giorni alla settimana e loro hanno cominciato a venire tutti i santi giorni. Ormai sono qui da 4 anni. Barry parlava pressoché ininterrottamente e per lo più dicendo cose incomprensibili e assurde. Parlava un sacco di musica, ma un sacco anche di libri e di film e di donne. Pensava e parlava in termini di decine e di cinquine e di conseguenza così facevano anche Dick e Rob. E li faceva stilare classifiche tutto il tempo. Rob, la top 5 dei crimini musicali di Stevie Wonder anni 80 e 90. O i 5 migliori assolo di chitarra, o i 5 migliori dischi incisi da musicisti ciechi, e avanti così. Email audiogrammi @radio24.it. Gli sarebbe piaciuto fare la classifica dei primi 5 dischi che non procuravano alcuna emozione. Appena Rob tornava a casa, metteva su i Beatles. I Beatles erano solo suoi, non suoi di Laura, non suoi di Charlie, non suoi di Allison, e anche se gli davano delle emozioni, non erano mai brutte emozioni. Oh, I know I'll never lose affection. Lo preoccupava un po' il ritorno a casa quella sera, ma andava bene. L'inattendibile senso di benessere che aveva provato quella mattina ancora lo accompagnava. E poi non sarebbe stato sempre così, con tutte le sue cose in giro. Presto Laura avrebbe sgombrato e se ne sarebbe andata via anche quell'aria da vascello fantasma. Il martedì successivo si mise a riordinare la sua collezione di dischi. Gli capitava spesso di farlo nei momenti di stress emotivo. Certi lo considereranno un modo stupidissimo di passare una serata, ma lui non era fra quelli. Quella era la sua vita ed era bello sguazzarci in mezzo, immergerci dentro le braccia, toccarla. Quando c'era Laura, Rob aveva i dischi sistemati in ordine alfabetico. Prima li aveva in ordine cronologico, a cominciare da Robert Johnson e finendo con gli Wham o qualche musicista africano o qualsiasi altra cosa stesse ascoltando quando aveva conosciuto Laura. Quella sera però voleva cambiare ancora. Così provò a ricordare l'ordine in cui li aveva comprati. Era un po' come se scrivesse la sua biografia e senza dover mettere mano alla penna. Tolse i dischi dagli scaffali e li mise in pila per tutto il pavimento del soggiorno. Cercò il revolver e andò avanti da lì. E quando ebbe finito si sentì tutto infervorato e pieno di sé. Perché questo, dopo tutto, era ciò che era. Quello che gli piaceva veramente era il senso di sicurezza che gli veniva dal suo nuovo sistema di archiviazione. Si era fatto più complicato di quel che era in realtà. Siccome possedeva un paio di migliaia di dischi, bisognava essere lui per sapere come ripescarli. Una sera, Rob, Barry e Dick andarono al Larry Lauder Pub. Non ci andavano spesso, anche se era giusto in fondo alla loro strada. Ogni tanto però, come quella sera, presentavano qualche artista americano di musica folk country. Gente con un suo piccolo seguito di fan che arrivavano insieme nella stessa macchina. Il pub era pieno quasi per un terzo, un buon risultato. La musicista che erano venuti a sentire si chiamava Marie Desalles. Aveva fatto un paio di dischi con un marchio indipendente. Alle 9 Marie Desalles era salita sul palcoscenico e alle 9:05, con forte irritazione e grande imbarazzo, Rob si era ritrovato in lacrime e il mondo senza emozioni in cui aveva vissuto negli ultimi giorni gli era crollato addosso. C'erano un sacco di canzoni che aveva cercato di evitare da quando Laura se n'era andata, ma la canzone con cui Marie Desalles aveva aperto il concerto, la canzone che lo aveva fatto piangere, non era fra quelle. La canzone che lo faceva piangere non lo aveva mai fatto piangere prima. In realtà, la canzone che in quel momento lo stava facendo piangere una volta gli faceva schifo. Era Baby I Love Your Way di Peter Frampton nella versione Marie Desalles. Essere in compagnia di Barry e di Dick, con la sua maglietta dei Lemonheads, e ascoltare una versione di una canzone di Peter Frampton e mettersi a piangere. E non finiva mica lì. Per colpa di quella canzone, si ritrovava in preda a due stati d'animo palesemente contraddittori. A. Tutto a un tratto avvertiva la mancanza di Laura con una passione che era stata del tutto assente negli ultimi 4 giorni. E B. Si innamorava di Marie Desalles. Sono cose che capitano. Quantomeno capitano agli uomini, o quantomeno a quell'uomo in particolare. E Marie Desalles era anche affascinante a suo modo di vedere e non priva di talento. Insomma, abiti a Chicago adesso. Eh sì. E ti piace? Sì. Dovresti passare al nostro negozio, c'è un chip vibe. Non ci pensavo. Sì, abbiamo roba tosta da intenditori. Sì, c'è il rock, c'è il soul, c'è il trip hop, c'è la salsa. Perché ragazzi, non andiamo? C'è un chip vibe. Complimenti e auguri. Grazie. Rob lo sapeva che era da stupidi, ma non voleva che Maria entrasse nel suo negozio, perché ci sarebbe stato il rischio che poi cominciasse veramente a piacergli sul serio. E allora sarebbe stato tutto il tempo ad aspettarla, e sarebbe stato nervoso e stupido, e magari avrebbe finito col chiederle di uscire in chissà quale modo maldestro e tortuoso. Lei o non avrebbe capito, e Rob si sarebbe sentito un idiota, o avrebbe risposto no chiaro e tondo, ed ugualmente Rob si sarebbe sentito un idiota. Tornando a casa dopo il concerto, Rob si chiese se Marie sarebbe venuta l'indomani. Quando arrivò a casa, trovò in segreteria un messaggio di Liz, l'amica di Laura. Rob, sono Liz. Ti ho chiamato per sapere... Beh, sì, per sapere come stai. Io sono anche amica tua, perciò non prenderò le parti di nessuno. Per ora. Richiamami, va bene? Ciao. La mattina seguente, Rob andò al lavoro e chiamò Liz. Sono stufo di questo negozio. Un giorno di questi vado fuori di testa. Butto i dischi dalla A alla L per strada, vado a lavorare in un Virgin Megastore e tanti saluti. Pronto? Ciao, Liz. Ehi, ciao, Rob. Ti ho telefonato per ringraziarti del tuo messaggio di ieri sera. Mi ha fatto bene. Mi sono sentito meno cretino. Come stai? Come va? Bene, bene, insomma, forse io e Laura non siamo fatti l'uno per l'altra, oppure il contrario. Già. Solo il tempo potrà dircelo. E se è tempo di cambiare, è tempo di cambiare. Non so che dirti, preferisco restare neutrale. Certo, ti capisco. Ti vedo bene con Laura, se faceste pace sarei contenta. Ah? Non mi convince tanto questo Ian. Rob, Marie Desalles è entrata nel negozio. Ti devo salutare, scusa Liz. C'erano tutti e tre in negozio. Rob aveva messo su la cassetta di Marie Desalles e quando la vide entrare cercò di spegnere il registratore prima che lei se ne accorgesse, ma non abbastanza in fretta, così andò a finire che lo spense proprio mentre lei cominciava a dire qualcosa a proposito del nastro e così Rob la fece ricominciare arrossendo. Lei rise. Rob andò nello sgabuzzino e non ne uscì più. Barry e Dick le vendettero cassette per 60 sterline. Poi Barry irruppe nello sgabuzzino e disse a Rob che Marie li aveva invitati al White Lion per un suo concerto e che erano nella lista degli invitati, niente meno, tutti e tre. Quando arrivò a casa, sul davanzale, Rob trovò tre lettere. Una bolletta per lui, una lettera della banca per Laura e un sollecito di pagamento del canone televisivo indirizzato al tizio che fino a 6 settimane prima viveva al piano di sopra. Tremava mentre entrava nell'appartamento e si sentì male. Pensava che fosse tutta colpa del tizio del piano di sopra. L'aveva capito nel momento stesso in cui aveva visto quella busta. E gli tornava in mente che Laura un paio di volte era andata su a trovarlo e che faceva la civetta. Beh, non proprio la civetta, ma certo si aggiustava i capelli più spesso e sorrideva più scioccamente di quanto sembrava strettamente necessario quella volta che lui scese giù a bere qualcosa da loro il Natale precedente. E adesso? Da dove esce questo Ian? Laura non conosce nessun Ian. Non ci sono Ian in ufficio e non ha amici di nome Ian. Era proprio il suo tipo, con quell'aria da bambino sperduto, tranquillo, premuroso e l'anima malinconica quanto basta a farlo sembrare interessante. Non gli era mai piaciuto molto, ma adesso lo odiava proprio. Da dove esce questo Ian? Quando era cominciata? L'avevano fatto spesso? E l'ultima volta che avevano parlato con Ray, la sera prima che cambiasse casa, stavano già insieme? Forse Laura sgattaiolava al piano di sopra le sere che lui non c'era in casa? Aveva bisogno di tranquillità, solo tranquillità. Fine primo tempo. Il secondo tempo di Alta Fedeltà, domenica prossima alle 20:15. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are.